Thank you.

terror, un favorito del sommo imperator, un dio tremendo, proconsolempio, in questo dì qui giunge, e il suo braccio feroce, ora d'ardor mi sprone, a carnefici nostri, onde novelli, s'inventino supplizi. Io l'affronto il furore, ai arpugnani già presento il senno. Si fugi, al proconsole, io mio padre piantura, era il segreto, io pure il caso. Io rinneghi quel Dio che tanta no. Thank you. il proconsol Sanza dell'alto imperatore. Qui sero giunto armato. Yeah! com'ha d'estirpar l'inigua, sacrilega geria, ribelle nomi e s'annidan tra voi, come tra i fiori, malvagia serpe. Scuote ed un palpitar frequente la tua dolce presenza il cor già sonto Oh, colpo, su me! coverse di pallor. Altri per gesti donna reava nel cor. Spietato che versava il sangue mio, ma spietato fu quel vino che la vita a me serva. Godi pure cuore ingrato quel di morte in sé mi piomba, questo avanzo della tomba, la tomba. Ciarno fu spietato che versava il sangue mio, ma spietato fu quel Dio che la vita ne serva. Sua casa, o dimmi, sposo accanto, vive costei, solinco vive. Ma forse vive al tempio, suo malgrado spinto, fu dal paterno cenno, qual venda egli mi strappa. Sogno. chiego in lagrime ed al tuo pie di che m'avi ancora ancora thank you.

pace e per vera pace l'impero Serbatore. esempio di aiuto altri seguire di morte per il nuovo Dio non atterrisce. Osserti il suo dolore non fa nel domestico tetto e il ciascunque ma la figlia forse del proconsole il via tutti cose ede il sempre al maschiavo d'amor la brava e già ferve in esso dell'imminente strage la plebe vana è per sé ma quando la tratta il saggio è formidabile brava Sì, sì, con il vento alla pianta. Thank you. insieme si muoia, un grigone attende la dove possanta si tenga. Muore per te, io l'amor non ti favello, oh.